Canto ventesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto ventesimo. Contra miglior voler mal pugna, onde contra piacer mio, per piacerli, trassi dell'acqua non sazia la spugna. Mossimi, e il duca mio si mosse per i luoghi spediti pur lungo la roccia, come si va per muro stretto a merli. Che la gente che fonde a goccia per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa, dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Maladetta sie tu, antica lupa, che più che tutte l'altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa. O ciel, nel cui girar par che si creda la condizion di quaggiù trasmutarsi, quando verrà per cui questa disceda? Noi andavam co passi lenti e scarsi, ed io, attento all'ombre che io sentia pietosamente piangere e lagnarsi, e per ventura udì «Dolce Maria!» dinanzi a noi chiamar così nel pianto come fa donna che in partorir sia, e seguitar «Povera fosti tanto, quanto veder si può per quell'ospizio ove esponesti il tuo portato santo!» Seguentemente intesi «O buon Fabrizio, con povertà volesti anzi virtute che gran ricchezza posseder con vizio!» Queste parole m'eran sì piaciute ch'io mi trassi oltre per aver contezza di quello spirito onde parean venute. Esso parlava ancor della larghezza che fece Nicolao alle pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza. O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti, dissi, e perché sola tu queste degne lode rinnovelle. Non fia senza mercè la tua parola, se io ritorno a compier lo cammin corto di quella vita ch'al termine vola. Ed egli, io ti dirò, non per conforto ch'io attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che sia morto. Io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta duggia, sì che buon frutto rado se ne schianta. Ma se doaggio, guanto, lilla e bruggia potesser, tosto ne saria vendetta. Ed io la chieggio a lui che tutto giuggia. Chiamato fui di là Ugo Ciapetta, di me son nati i Filippi e i Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui d'un beccaio di Parigi. Quando li regi antichi venner meno tutti, fuor cun, renduto in panni bigi, trovami stretto nelle mani il freno del governo del regno, e tanta possa di nuovo acquisto, e sì d'amici pieno, ch'alla corona vedova promossa la testa di mio figlio fu, dal quale cominciar di costor le sacrate ossa. Mentre che la gran dote provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. Lì cominciò con forza e con menzogna la sua rapina, e poscia, per ammenda, Ponti e Normandi prese e la Guascogna. Carlo venne in Italia e, per ammenda, vittima fe di Curradino, e poi ripinse al ciel Tommaso per ammenda. Tempo veggio non molto dopo ancoi che tragge un altro Carlo fuor di Francia per far conoscer meglio e sé e i suoi. Senz'arme n'esce, e solo con la lancia con la qual giostrò Giuda e quella ponta sì ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia. Quindi non terra, ma peccato ed onta guadagnerà per sé, tanto più grave quanto più lieve simil danno conta. L'altro, che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne, come fanno i corsar dell'altre schiave. O avarizia, che puoi tu più farne, poiché il sangue mio a te si tratto, che non si cura della propria carne? Perché ben paia il mal futuro e il fatto, veggio in Alagna entrar lo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fele e tra vivi ladroni essere anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto porta nel tempio le cupide vele. O Signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Ciò che io dicea di quella unica sposa dello Spirito Santo e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tant'è disposto a tutte nostra prece quanto il di dura. Ma quando s'annotta, contrario suon prendemo in quella vece. Noi ripetiam Pigmalione a lotta, cui traditore, ladro e patricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta. E la miseria dell'avaro Mida, che seguì alla sua dimanda ingorda, per la qual sempre convien che si rida. Del folle a cam ciascun poi si ricorda, come furò le spoglie, sì che l'ira di Giosuè qui par ch'ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira, ludiamo i calci ch'ebbe Eliodoro, ed in infamia tutto il monte gira, Polinestor ch'ancise Polidoro. Ultimamente ci si grida, o Crasso, dilci che il sai, di che sapore è l'oro. Talor parliam l'un alto e l'altro basso, secondo l'affezion ch'a dirci sprona, ora maggiore ed ora minor passo. E la miseria dell'avaro Mida, che seguì alla sua dimanda ingorda, per la qual sempre convien che si rida. Del folle a cam ciascun poi si ricorda, come furò le spoglie, sì che l'ira di Giosuè qui par ch'ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira, ludiamo i calci ch'ebbe Eliodoro, ed in infamia tutto il monte gira, Polinestor ch'ancise Polidoro. Ultimamente ci si grida, o Crasso, dilci che il sai, di che sapore è l'oro. Talor parliam l'un alto e l'altro basso, secondo l'affezion ch'a dirci sprona, ora maggiore ed ora minor passo. Però, al ben che il dici si ragiona, dianzi non ed io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Noi eravam partiti già da esso, e brigavam di soverchiar la strada tanto quanto al poter n'era permesso. Quando io sentì, come cosa che cada, tremar lo monte, onde mi prese un gelo qual prender suol colui ch'a morte vada. Certo, non si scotea sì forte d'elo pria che la tona in lei facesse il nido a partorir i due occhi del cielo. Poi cominciò da tutte parti un grido, tal che il maestro inver di me si feo dicendo, non dubbiar mentre io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo, dicea, per quel ch'io da vicin compresi, onde intender lo grido si poteo. Noi ci restammo immobili e sospesi, come pastor che prima udir quel canto, finché il tremar cessò ed el compiesi. Poi ripigliamo nostro cammin santo, guardando l'ombre che giacean per terra, tornate già, in sull'usato pianto. Nulla ignoranza mai con tanta guerra mi fe desideroso di sapere, se la memoria mia in ciò non erra, quanta pariemi allor pensando avere, né per la fretta di mandare roso, né per me li potea cosa vedere. Così mandava timido e pensoso. Fine del canto 20.